Eccoci qua un'altra volta qui a ZAM su Radio ZM. Esatto, accomodiamoci, accomodatevi pure in sala. Non fate i timidi, le timide. Vi vedo lì al bar, non fate finta di niente. E quanti ne abbiamo oggi? No, lo dico perché mi hanno detto che siccome alcune cose radiofoniche. Bisogna dire quando si fanno le trasmissioni radiofoniche la data, il giorno, tutte queste cose qui è importante. Quindi oggi è sabato 18, siamo qui a ZAM e siamo in compagnia di Militanza Grafica per la presentazione del suo nuovo lavoro. Definiamolo così per il momento. E ricordo a tutti e tutte che ci potete ascoltare sia dallo streaming dal sito di ZAM, ma anche alla frequenza 1359 AM per chi avesse mezzi e strumenti per farlo. E niente, io direi che possiamo anche iniziare. E come prima cosa ti ringraziamo per essere qui, per essere venuto a presentare questo lavoro. La prima cosa che ti volevo chiedere era come si passa da un disegno statico a un disegno più dinamico, diciamo, quindi una storia che va avanti. Non dico se è un fumetto, una graphic novel, un libro, perché poi te lo voglio chiedere dopo, quindi. Allora, intanto buonasera a tutte e a tutti, in ascolto su ZAM e Radio ZAM ovviamente per tutti qui presenti. Ci tengo già a dire che comunque per me è un po' tornare a casa, sto vivendo un weekend abbastanza tipo Stargate, nel senso ieri stavo in un posto che era tipo il posto della mia primissima apparizione super goffa e questo è il terzo della mia apparizione super goffa, quindi sarà un'intervista goffa. Non, la vera risposta è che non lo so, nel senso che mi sono banalmente lanciato in un concetto più semplice, ovvero sia i manifesti mi stavano iniziando a stare un po' stretti. Avevo bisogno di anche analizzare quello che è stato un fumetto che è nato e cresciuto in 22.000 km fatti in tutta Italia in un anno. Più o meno è 5 volte la distanza tipo Roma-Berlino, almeno secondo Maps. E quindi questa stanchezza l'ho voluta mettere su una narrazione e non più su no? Un qualcosa di invece più statico, più slogan, no? Il manifesto nasce proprio per questo motivo. La narrazione invece è qualcosa di estremamente faticoso, che è identico ad aver perso un treno, è identico a non so. Un regionale che a Napoli Centrale decide di andare in retromarcia. Io non ho mai visto una cosa del genere, però è successa. E quindi sono tante cose messe insieme che ho preferito piuttosto raccontarle in questa versione, che poi è molto strana, infatti non si capisce molto bene se è un fumetto, eccetera. Anche qui poi dopo ne parliamo. Però la staticità e lo slogan di questa cosa non era più sufficiente, diventava limitante. E avevo bisogno di esprimere qualcosa di più per questo movimento fatto sulle rotaie. Ecco. Ottimo. Bene, un'altra cosa che volevo chiederti di provare così anche a raccontare rapidamente era un po' come su che idea si fondava questa storia, questo lavoro, quali erano un attimo i concetti fondanti e come mai hai deciso di fare questo e non altro, ecco. Allora, i concetti fondanti sono, partiamo da un concetto molto, molto centrale di tutto questo fumetto che potete appunto intravedere molte volte, ovvero sia è lo spazio e il tempo che passa fra la memoria e l'esecuzione stessa della memoria, ovvero sia, la faccio più semplice perché così sembra una roba tipo algebra. Banalmente vorrevo cercare di esorcizzare qual è il concetto proprio di tempo e di spazio che passa sul concetto di memoria, memoria militante, memoria politica. A volte ci sentiamo, secondo me, almeno in questa esperienza che ho fatto di 22.000 km, mi sono sentito con tantissime persone all'interno di collettivi diversi, con varie sensibilità, no? Quando attraversavo quei binari mi sentivo proprio in una sorta di Stargate, quindi andare a Napoli non è la stessa cosa di essere qui in questo momento ad Abbiategrasso, non è la stessa cosa Abbiategrasso rispetto a Rio Nero in Volture, provincia di Potenza, dove è nato il qualunquismo. Io sono andato apposta in questa area per capire cos'era. E tutto questo spazio-tempo l'ho rinotato in cosa? L'ho rinotato nei volti, nelle persone che poi attraverso noi vivono gli spazi ogni giorno. E anche da qua è la scelta del fatto di non volere nessuna forma editoriale dietro. Voglio e con tutto il cuore che questo progetto resti parte di un movimento e non sia parte editoriale. Quindi questo è un'analisi, ok? È una prospettiva. E è proprio dalla prospettiva, e poi ti ricedo la parola, e si conclude e si sviluppa il fumetto. C'è sempre quella della visione, cioè la lotta è una prospettiva, un continuo, no? Movimento, uno stato verso uno stato delle cose, ecco. E vedo tanti piccoli corpi celesti che appunto si muovono all'interno degli spazi sociali per creare qualcosa di veramente denso, come a Zamme, come in tantissimi altri posti che poi sono citati proprio come il vostro all'interno della prima pagina. Infatti grande, l'avevo notato, grazie mille. No, poi adesso così sfogliando il fumetto, un po' noto, ma poi leggendolo un po' cercherò di capirlo meglio, o meglio, forse ce lo spieghi tu ora. Dietro a il metodo narrativo, la scelta linguistica, cioè sembra di notare delle attenzioni specifiche rispetto a la questione dell'uso dei generi, eccetera, eccetera. C'è proprio una intenzionalità, c'è una volontà di lasciare certe cose più sul caso, cioè come ha funzionato questo aspetto del fumetto. Allora, parto da una premessa, ovvero sia quella che l'utilizzo del genere all'interno di questa narrazione è usato solo quando necessario, per fini proprio narrativi di per sé. Ma nella sua completezza, nella sua generalità, non l'ho voluto perché non lo ritengo importante. Non lo ritengo un valore. Lo ritengo un confine, e credo che la possibilità di parlare solo della storia, del fatto, senza unicamente trattare ovviamente questo aspetto che io reputo, e lo dico spesso, lo pubblico spesso, lo reputo estremamente vetusto, lo vedo vecchio, a volte parlo spesso anche pubblicamente come lo noto come qualcosa di clericalmente medievale, cioè qualcosa di clero, non lo noto come qualcosa di ormai coordinato con quello che sta succedendo nel mondo, con quello che il mondo chiede a se stesso, no? Ed è stato wow, è stato bellissimo, secondo me, riuscire a... E questo davvero, personalmente è stato molto bello riuscire a distruggere tutto questo, cioè non c'è assolutamente bisogno, c'è bisogno in realtà di parlare di movimento, c'è bisogno di parlare di singolarità. Preferisco parlare di singolarità. Ok, mi rendo conto di tante cose, mi rendo conto di un aspetto biologico, ma questo non c'entra niente con la singolarità è meravigliosa, è qualcosa di unico, è di unico e di condiviso, è di fluido e di movimento. Di interpretazione personale, di autodeterminazione, qualcosa di meraviglioso, e questo per me è un valore fondante del fumetto e delle comunicazioni che continuerò a fare e che continuerò a sviluppare da qua finché non mi rompo il polso disegnando, ecco. Ok, grazie. Guarda, allora, un'altra domanda che adesso mi è venuta proprio così, in realtà è anche un argomento su cui a livello collettivo qui a ZAM stiamo ragionando, sia dal punto di vista, diciamo, più astratto, sia dal punto di vista più concreto e materiale. Ma adesso così sfogliando vedevo alcune tavole di... non so, ce n'è una con scritto "Bentornata militanza", ce n'è un'altra con dove c'è uno che fa le scritte sul muro scritte "anticapitaliste", alcune, diciamo, accenni di rivolta. Quindi diciamo che a sfogliarlo sembrerebbe molto che il conflitto sia un po' al centro anche di tutta la questione, sia della storia ma anche del mondo, diciamo, che provi a raccontare. E volevo chiederti in che forma, diciamo, militanza grafica è conflittuale e come emerge la conflittualità all'interno di questo fumetto. La conflittualità per me è essere fuori dall'asse del tempo, essere completamente fuori da una narrazione del oggi faccio questo perché domani devo fare questo perché domani faccio questo. C'è un'altra frase che io non ho inserito in questo fumetto, ma lo piano piano lo sto cercando di analizzare, che l'errore, o meglio anche una frase per arrivare poi al succo, lo faccio per i figli dei miei figli, dei figli dei figli dei miei figli. Queste frasi sono per me estremamente pericolose, non fanno nient'altro creare ulteriori confini, ulteriori barriere fra quelli che sono proprio lo spazio e il tempo di generazione. Quindi credo che il conflitto possa essere interpretato non soltanto, almeno nel mio aspetto editoriale, almeno questo dico, non soltanto in un'azione, in una provocazione, no? Ma è anche quello di reinterpretare il tempo, la reinterpretazione del tempo, quindi decidere quando davvero è necessario che un corpo decida di fare una cosa, un corpo pensante. Quindi esco dalla dicotomia appunto del capitale, quella delle 8 del mattino fino alle 18, credo che questo sia conflittuale. Esco dal determinare che la scuola sia l'unica cosa che ti possa dare una licenza per fare profitto. Esco da tutto ciò. Esco dal fatto che debba essere un essere binario per interpretare me stesso, e quindi esco anche da tutto questo. Uscire e straniarsi da questa continua regola credo che sia veramente molto conflittuale. È complicatissimo. E spesso le persone che lo possono fare sono persone privilegiate. Almeno in questo mondo, almeno ora, 19-18 febbraio, che sto parlando adesso, non è semplice. Quindi le persone non possono fare tutto esattamente come faccio io o come fanno altre persone. Quindi stampo fumetti, stampo manifesti, annullo il mio volto, non sono nessuno. Rispecchio semplicemente proprio questo caos del tempo. Credo che, wow, sia estremamente rivoluzionario come idea, penso, spero. Un concetto assolutamente interessante. Un'altra cosa che notavo qui nel fumetto è che praticamente, scusate se sì, perché parlo col microfono in mano come se fossimo a un concerto, in realtà non lo è. No, dove c'era esatto. C'era tipo rivolta, dolce rivolta. Mia, l'ho scritto 10 volte. Insomma, quel concetto lì mi era. Sì, no, okay. Ok. Il dolce rivolta. Insomma, spiega come mai? Perché ovviamente io non ho ancora letto il fumetto, quindi non ho ancora ben presente tutta la quadra. Però. Perché si è parlato tantissime volte, credo che se ne sia parlato anche molto ampiamente, del discorso del perché esiste una parte comunque sia radicalmente che poi attua delle azioni che vengono considerate genericamente violente, questa parola, no? Quindi la rivolta intesa come descrizione treccaniana, oserei dire, ovvero sia che è, apro, no? Apro e Treccani mi risponde, boh, non lo so, mi sembra veramente follia. Quindi adoro accostare la parola rivolta a dolcezza, dolce rivolta. È meraviglioso, perché credo che nel momento in cui la rivolta termini, quindi si cala come se fosse una sera dove c'è tutta la neve intorno, non so se avete presente un po' tutto quando c'è tanta neve, no? E quindi hai questa sensazione di ovattato, non senti, no? Il suono intorno a te è differente, no? È tipo poco riverberizzato, così si direbbe a livello tecnico. E questo accostamento è wow, è un senso di pace. E probabilmente tutto quello che sto facendo, tutto quello che è il manifesto, tutto quello che è il fumetto, tutto quello che potrò fare o non fare nel futuro, è tutto legato a una costante, spasmodica ricerca di pace, di uno stato di pace. Persone che attraversano gli spazi sociali, che lo vivono, lo spazio sociale meglio, che lo vivono nelle piazze e poi lo trasformano poi in lotte politiche singolari, singolaristiche o comunque sfumature, sono perennemente in uno stato di guerra in questo paese. Non hanno mai avuto, dopo tanti anni, un momento di pace, di pacificazione. E questa cosa fa mancare il fiato, questa cosa rallenta le persone, le fa faticare, molte persone se ne vanno, si staccano, no? Perché non ce la fanno più. Ma non soltanto a livello proprio di lavoro, di vita quotidiana, non ce la fanno più mentalmente. Sono stanche, sono svuotate da un costante stato di guerra. Ed è probabilmente in queste situazioni qua che quando ci si rende conto di tutto questo, forse puntare a quello stato delle cose che narravo prima, punterebbe a cambiare il concetto di rivolta in una dolce rivolta, in cui quando finisce, finalmente c'è il silenzio. Quel silenzio di pace che tante persone, secondo me, anche tu e tante altre, sogniamo tipo da... tipo da un sacco... Vabbè, quello su quello... No, stava dicendo per gli ascoltatori, l'ascoltatore di Zamma stava parlando di una serata tipo di cosa? Di te, bella elettronica, di quelle proprio... Tish, capito? Quella. E non è domenica. E non è domenica, attenzione. E no, beh, concordo su questa questione di ricercare la pace e dello stato di, diciamo, agitazione che diciamo caratterizza questi tempi e l'inquietudine anche che caratterizza questi tempi, quindi sono abbastanza d'accordo. Poi io ti volevo chiedere, appunto, tornando alla domanda iniziale, ma solo perché io faccio una difficoltà oggettiva non so, deve essere che il mio cervello è sbiellato per svariati motivi e mi ha portato praticamente a essere incapace di... cioè io posso vedere delle tele, delle cose e leggere dei libri, ma mischiare queste due cose insieme, non so, mi squaglia il cervello. Il fatto che il fumetto non sia da sinistra a destra per forza, ma che ci siano tutte queste cose, forse io sono troppo quadrato e non... E quindi volevo chiederti... È un fumetto? È una graphic novel? È un libro grafico? Che cos'è e perché hai scelto questo? No, allora, sì, ovviamente è un fumetto, cioè relazionatamente è un fumetto. Non è un fumetto di tipo bonelliano, mettiamolo così, nel senso, non è un fumetto classico, appunto, sinistra verso destra, griglie, cose. Cosa molto libera, sono tavole aperte, c'è tantissima narrazione, molte persone che l'hanno letto mi hanno detto ma è comunque un fumetto estremamente narrato, cioè c'è tanto testo dentro, ecco, e l'ho fatto perché è proprio per la risposta prima che ti ho dato, cioè ovvero sia è troppo limitante tutto ciò e non avevo bisogno di dire cose, cioè avevo proprio bisogno di scriverle, però non faccio libri. Farei assolutamente schifo a fare il libro, sono molto sicuro, nel senso che, ok, faccio un sacco di strafalcioni anche soltanto con una caption su un social media, mi immagino tipo a mettermi in piedi con più di 200 pagine sul libro, cioè potrei fare delle figuracce di dimensioni bibliche, appunto, per citare un altro libro che è il più venduto al mondo, e quello che mi sento di dire è che è un fumetto, è anche un formato, l'ho fatto apposta piccolino, apposta per tipo, lo puoi mettere in tasca, lo puoi mettere nello zaino, puoi far girare, cioè è una cosa proprio di movimento, quindi cioè, non soltanto per il movimento, ma proprio anche per il movimento, sto andando in giro, me lo leggo, lo giro, cioè è una cosa piccolina, non è qualcosa di grosso, invadente, pesante, non lo è, perché il movimento non lo è, è leggero, è ovunque, ma è leggero, e penso che lo siamo anche noi. Sì, io un po' meno forse, leggero, però... No, era per stemperare, scusami, perdonami. Ma io invito la platea antistante non solo a consumare alcol, che forse potete anche trattenervi ancora un po', ma se a voler intervenire nel dibattito, se qualcuno o qualcuna ha delle domande da fare... Il microfono è aperto, se no io cedo di nuovo la parola all'autore, che magari vuole dirci qualcosa di specifico che non ti ho chiesto, ecco. No, in realtà in caso se ci sono curiosità, cose, insomma, poi lì c'è, capito, c'è il fumetto, lo potete sfogliare, insomma, poi stiamo qua, insomma, in serata, ci parliamo, ci possiamo dire anche le cose a latere senza per forza entrare in un discorso così, ma vi volevo salutare con un'ultima cosa e chiudere quindi questo momento un po' presentativo, ok? Per parlare un attimino di quella roba lì con una piccola, piccolissima cosa. È una cosa molto, molto strana, perché a me è sempre piaciuto andare a cercare delle cose, cercare di curiosare, guardare un po', sfruttare anche il mondo dell'internet. E non so se voi mi siete mai chiesto se sapete l'origine di queste tre parole, c'era una volta. Io me le sono andato a ricercare, sono andato a vedere, in realtà è una storia di questo c'era una volta, che tra l'altro è meraviglioso perché sono tre parole che se tu le modifichi di ordine cambia tutto il senso, cioè, anzi a volte non ha neanche un senso. Diciamo che la nostra narrativa, quella più europeista, europea, eurocentrica, bruttissima oggettivamente, in realtà esiste ed è in Amore e Psiche di Apuleio. Apuleio fu la prima persona in quel del mondo greco, appunto, a lanciare questo c'era una volta, e io l'ho sentito un sacco di volte quando ero un cucciolo d'essere umano. C'era una volta, no? Mi apriva come una sorta di spazio-tempo, immaginavo, guardavo le labbra della persona che mi stava raccontando questa storia. E quindi io ve ne voglio raccontare una, perché è proprio stato questo che a me ha spinto poi alla fine a fare questo fumetto. Quindi io vi racconto una piccola storia per salutarci così. Siamo negli Stati Uniti d'America. Arriva un telegramma al Telegraph Journal con una cosa incredibile. C'è qualche persona che vuole fare il primo volo diretto, senza scali tecnici, sull'Oceano Atlantico. È una cosa sensazionale, siamo nel 1921, siamo ad aprile. Il giornalista del Telegraph Journal prende la macchina, parte, va verso questo campo abbastanza diroccato. È un campo poi un po' arrafattato in mezzo ai prati. Non trova nessuno, vede soltanto però in realtà questo piccolo Fork V5. È un piccolo monomotore, quindi ha solo un'elica, per farvi capire a tutto, ok? È un po' sgangherato, boh, le persone... E quindi questo giornalista fuma nervosamente la sua Philip Morris e non vede nessuno. A un certo punto una sagoma spunta, si avvicina a questo monomotore e inizia a controllare, a guardarsi, no? Arriva il giornalista, controlla e dice... Telegraph Journal, sono io. Dov'è il pilota? Ma questa persona guarda e fa, sono io. Il giornalista si scoppia a ridere. Ridere? Ma come? Ma sei una donna? Dov'è il pilota? Io ti ho chiesto il pilota. Ma come può essere? Ma che vuoi morire? Vuoi finire sulla cronaca nera? Questa ragazza con un aplomb particolare gli risponde con una frase. Guarda, il giornalista del Telegraph Journal gli dice... Ma scusa, tu hai per caso delle copie del tuo giornale adesso in macchina? Lui... Ah, certo che se li ho. Sono il giornalista. Vuoi che non ce l'abbia? Nella mia Cadillac, no? Ecco, dammene due copie, risponde lei. Dammene due copie. Perché così, quando io arrivo dall'altra parte, proverò la data di partenza. Perché io ci arrivo dall'altra parte. Era la seconda metà di aprile del 1921. Questa ragazza, questa donna, si chiamava Emily Herath. Decise di fare 14 ore e 36 minuti di volo sull'Oceano Atlantico. Non arrivò a Parigi come pensava, non ce l'ha fatta. Questo Fork V5 era un po'... ecco, era un po' sgangherato. E ci provò, però ci arrivò... Alla fine ce l'ha fatta, perché con un atterraggio un po' fortuito e sicuramente con tantissima tenacia, con tanta tecnica, atterrò in Irlanda del Nord. Quindi, sì, ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. Emily ce l'ha fatta. Amelia ce l'ha fatta. Due contadini corrono verso il V5, atterrato, distrutto, semidistrutto, in quella della campagna irlandese, e la domanda gli fanno, ma dove arriva? Cioè, non so, ma dove sta arrivando? E lei risponde con il Telegraph Journal, da molto lontano. Ecco, io ho fatto questo fumetto un po' seguendo questa cosa, questa meravigliosa idea di io arrivo da molto lontano, voglio raccontare qualcosa di molto lontano, e come questa... meravigliosa donna che ha deciso di non vedere questo confine come una barriera, ma solo per essere scavalcato e distrutto, vogliamo, come tanti e tanto di noi, cambiare tutto in questo mondo. Ci piacerebbe cambiare un sacco di cose. la scuola, perché ce ne sarebbe, è infinito l'elenco. Quindi facciamo fumetti, faccio fumetti, faccio cose, ma cambiamo tutto, cambiamo il mondo, vi prego, facciamolo, proviamoci. Però una cosa, se posso chiedere a tutto, lasciatemela. Una, vi prego, non cambiatemela mai. È una sola, è meravigliosa, è stupenda ed è quello per cui sono qui e spero di essere ancora qui per tutto il tempo che sarà necessario per questo nuovo mondo, ovvero sia quelle tre semplici parole. Lasciatemi solo quelle tre semplici parole. C'era una volta. Grazie a tutto, a tutte e a tutti. Grazie. Beh, allora ringraziamo tutti e tutte le presenti, e ringraziamo chi ci ha ascoltato da casa, ringraziamo Militanza Grafica che è venuto questa sera a condividere con noi il suo operato. Vi consigliamo di entrare in possesso del fumetto che si intitola Scusate il disturbo, poi al banchetto potete trovare. Come ultima cosa, per i presenti e per chi ci ascolta, vi aspettiamo in piazza dal 16 al 19 marzo per ricordare Dax nelle quattro giornate, e sui social Dax Resiste potete trovare tutte le informazioni. Conseguite Militanza Grafica, e per chi è a casa, dai, spegni il computer, vieni a Zanca, c'è serata, forza un po'. Dai.